acercar mi deseo de poder recuperarme. Questo qui è stato un visto di questo primo, capitoletto, se non ricordo male, al di là della parola 156, ecco, adesso guardiamo quello a fianco c'è un capitoletto 2, lo chiamiamo, a cui diamo come titolo poter fare barra la precisione. Poter fare barra la precisione, adesso leggiamo e scriviamo di che si tratta. Sì, allora, Gemini qua è segnato del scritto Enon, campena di un software d'animale intellettuale mongol, e conosce il suo titolo di Verno, l'ente lì, Salvatage, Voyeur sans regret, Solitaire sans remont, tout entier à teneur sans intérieur, à sa propre fonde, logé dans un hôtel avec sa valise, sans livre, sans besoin de crier, et présentant l'une et l'autre faiblesse, réducteur impitoyable, et le narrateur croit capable de tout, dédaignant tout, moderne. Je n'ai envie que de pouvoir, disait-il, et je déteste la rêverie et l'art, mais j'aime la folie ressentir toute la précision dont je suis capable. Je me précise avec délice, je me sens m'enchaîner et me délivrer et me dessiner. Je ne compte pour rien l'amour, l'histoire, la nature. Passaggio, ricchissimo di considerazioni che si possono fare, no? Riguarda tutti i pareri naturalmente riguardo il lavoro intellettuale e segnatamente il lavoro dello scrittore. Allora, come deve essere uno scrittore? Come deve essere uno scrittore? Uno scrittore deve essere, mi piace la traduzione, non l'ho ancora fatta, l'ho fatta la traduzione, no, non l'ho visto. Ho una volta cercato di descrivere un uomo accampato nella sua vita, una sorta di animale intellettuale, un mongolo che risparmia sciocchezze ed errori. Ascoltate questo, è molto bello, veloce e brutto, senza legami, viaggiatore senza rimpianti, solitario senza rimorsi, tutto dedito ai suoi costumi interiori, alla sua preda profonda, misso nel logé, non c'è solito, ecco, stavo vedendo il numero di persone che mi raccontavano di loro. Messo in un alloggiato in un hotel con la valigia, senza libri, senza bisogno di scrivere, pieno di disprezzo per l'una e l'altra debolezza, riduttore e pietoso, freddo numeratore, capace di tutto, degnoso di tutto, come ogni idea. Io non ho voglia che di potere, diceva, io detesto la fantasticheria e l'atto, ma amo la follia, sentire tutta la precisione di cui sono capace, precisarmi con delizia, io sento incatenarmi e liberarmi, io mi sento incatenarmi e liberarmi e divenirmi. Non tengo in nessun conto l'amore, la storia, la natura. Non so se vi ho già fatto questa osservazione, che riguarda lo stile particolare a cui Valéry ricorre qui a cui ricorre spesso, ma soprattutto se, qui nel Cahier. Come vedete sono pensieri che sono spesso separati tra di loro da trattine, da lineette, perché non vuole creare una netta connessione, perché i trattini, le lineette, gli facilitano le cose, sostanzialmente, no? Vuole scrivere i pensieri così come gli vengono alla mente. In qualche modo vuole essere libero, il più libero possibile nel pensare. E così immagina lo scrittore per lui ideale. Uno scrittore che sia un mongolo, cioè che sia un nomade. No, i popoli mongoli sono per antonomasia popoli nomadi. Ecco, a me gli occhi, però devi seguirmi su queste cose qua. di essere nomade. Allora, vuol dire non avere una casa. Vuol dire non avere una casa. Ora, uno scrittore deve avere una casa, che dice lei? E gli dice no. Eppure io scrivo bene solo con una libreria delle biblioteche che ho in casa, una alle spalle. In un altro luogo non scrivo bene. Dietro ci sono i libri, una alta parete di libri, davanti ci sono dei quadri, davanti a me ho il computer, io scrivo bene solo in queste circostanze. Dizionari da una parte, dizionari dall'altra, sole, enciclopedie che ci sono, i libri, sì, insomma, tutto un armamentario al quale però, pur avendo una casa, bisognerebbe che mi sentissi senza casa. Senza casa. Cioè, pronto a cambiare. Vediamo un po' su questo significato, su questa parola, sentirsi senza casa. In realtà è difficile per tutti noi sentirsi senza casa. Sentirsi senza casa è difficile. Se io vado in uno scompartimento ferroviario, e viaggio abitualmente, lo scompartimento diventa una specie di casa, per me. Non so se avevo mai fatto questa considerazione, no? Io mi ricordo di viaggiare per anni, insegnando in altre università, e c'era la bottiglia come era vicino, il paltò di sopra, la borsa di sopra, il giornale a fianco, era sempre nello stesso angolo vicino al corridoio, nel senso di marcia del treno, e mi ero creato una piccola casa, mi ero creato una piccola casa. È come forse è nata l'abitudine che ognuno di noi ha di crearsi casa. Appena hai un fidanzato, ti crei una casa. In che senso? È nel senso che cominci a fare certe cose. Lo stesso locale in cui andare, che so, a prendere la pizza, o al cinema, la stessa passeggiata, lo stesso, tutto diventa squisitamente lo stesso. Tanto è vero che quando poi noi rompiamo dei rapporti, parlo di amori, ma anche di amicizie, insomma, ci mancano poi non solo le persone, ma ci mancano le cose che facevamo insieme, no? È come se noi fossimo, perché è una bellissima metafora che mi sta venendo in mente, noi fossimo delle chiocciole, fossimo delle lumache, cioè abbiamo il guscio sopra le spalle, ci portiamo la nostra casa dietro con noi, capite? Dietro con noi. Tutto diventa casa, tutto, uno scompartimento ferroviario, un vestito che vestiamo più spesso di altri vestiti, vi saranno certamente dei vestiti, degli abiti che voi avete, ma non mettete, non perché non vi stiano bene, non perché siete abituati a stare in un certo modo. I vostri oggetti, che so, la concinga, la bellezza, le coperte da mettere sul letto, tutto, tutto, tutto, forse nativamente casa, la macchina in cui stai diventa casa. La macchina è un pezzaggio di latta, intercambiabile in teoria con altri pezzaggi di latta, c'è una lezione, in senso. Eppure diventa qualcosa di più. Diceva Baudelaire che il problema della nostra vita è che tutto diventa un simbolo. E possiamo tranquillamente dire, tutto diventa un simbolo nel senso che diventa la cosa che diventa di più è una casa. La faccia di una persona è una casa. La faccia di una persona è una casa. No? A volte mi sono chiesto, per esempio, il mio strano difetto, di cui alcuni di voi studenti hanno avuto dimostrazione che non riconosco le parti delle persone, è una cosa sgradevole, una cosa sgradevole. Ci sono alcuni che sono malati gravi, per esempio sapere chi è malato grave, scrittore, fa per dire, ma è una persona intelligente, Luciano del Crescenzo, lui non può uscire perché non riconosce nessuno. Io sono molto con difficoltà, come vuol dire questo? Cioè in realtà non voglio farmi delle case nella faccia delle persone, non voglio appartenere a nessuno. Se uno si fa una casa nella faccia di una persona, appartiene a quella persona, capito? Noi tendiamo ad andare negli stessi posti di villeggiatura dove già siamo andati, uno può dirsi, ma non ti annoia andare nello stesso posto? Noi abbiamo una certa reticenza nel rispondere alle nostre difficoltà, ma è diventata una casa nostra. Tutto diventa casa. Un professore diventa casa. mi chiama di Giura, chi mi conosce da un po' di tempo, io sono una specie di casa per chi mi conosce da un po' di tempo, no? Dov'è che non bisogna avere la casa? Nell'amore? Ma ognuno dà la risposta che vuole alla domanda del genere. Ma certamente è pericoloso avere la casa per un scrittore quando scrive. Ascoltate che la cosa è molto, secondo me, interessante. Questo è vero? No. Allora di nuovo gli dici una cosa che non è vera. Ma io mica l'avrei inventata. Mica l'avrei inventata. Perché si può ragionare in altro modo. Si può dire che ognuno di noi deve scrivere rintracciando, come diceva Proust, la sua patria per tutta, questo è un tema sostanziale, no? L'altro giorno ho visto un film con Nicolas Cage in cui quello della faccia non è quello che l'ha visto, ma è un altro, con Nicolas Cage, in cui a un certo punto uno che spiegava completamente la moglie che aveva lasciato, il figlio è drogato, si chiama Alfredo Vilma, ma gli va tutto male, ecco. Poi io, come spesso capita, mi addormento un po', sonnecchio, ma non è che mi curo molto di questo, sapete, perché in un'opera d'arte, opera d'arte intendo che sia un'opera d'arte, un'opera che avere delle teste artistiche, uno può anche addormentarsi un po', leggere un libro. In un rapporto affettivo con qualcosa, uno può anche addormentarsi, per esempio, lo scrivo nel capo di letto, una bella, uno può anche addormentarsi un po', non bisogna essere sempre vicini. Quindi un film puoi anche addormentarsi un po'. Ieri sono stato a sentire un concerto di John Byers, sapete, la famosa cantante pacifista, un po' il freddo, figura carismatica, un po' mi sono un po' addormentato, l'ho seguito male, cioè, pieno di era. No, non lo so dire, ma lo so dire. Uno può addormentarsi un po', perdere i contatti. Ma la cosa importante è che uno stia con se stesso, che uno la propria patria la frequenti, no? Quindi stiamo dicendo qualcosa per cui bisogna avere il guscio, come le chiocciole, addosso. Anzi, chi non ha il guscio addosso, chi non ha una casa, lo scrittore che non ha una casa, vedete qui in questo giro di discorso, lo scrittore che non ha una casa è uno scrittore perduto, aveva un allievo che è diventato celeberrimo. Si occupava di teatro, ha fatto pièce teatrali pubblicate in Argentina, negli Stati Uniti, in varie parti del mondo. Questo disgraziato ha scritto anche una cosa che io avrei detto come epigrafe. A Enrico Guaranto che ha detto, io non ho mai detto una sciocchezza come quella che lui mi attribuisce, sulla passione, o forse secondo Luca Bevilacqua io posso aver detto una frase del genere per intervallo ai sani, un momento, non ho mai detto stampata lì questa cosa, una cosa dolorosa. A un certo punto l'ho allontanato da me, perché lo ritengo mediocre, questo vuol dire, a me c'è il caso di riattaccarsi un po', ma io potevo dire che lo ritenevo un cretino, che non era figlio, non era gentile, insomma, ma questo perché lo ritengo? Adesso sono un po' esagerato, perché non è un cretino, però mi sono colpito. Perché non aveva guscio. Mi piace questa idea. Perché capitava un fatto di cronaca che ci metteva sotto una pièce teatrale. Capitava un altro fatto di cronaca, ma qual era la sua storia? In realtà lui poteva attingere alla sua storia, conoscevo bene la sua storia personale, ma non aveva guscio. Proprio perché è un grande scrittore. Perché lui c'è un guscione grosso così. Quindi bisogna avere il guscio. Bisogna avere un mondo. Nel film, vedete che non mi perdo poi, nel film, il Nicolas Cage, alla fine di tutto, dice questo, dice, quando ero giovane, io ero varie persone e non sapevo quello che sarei diventato. E questo mi è sembrato bellissimo perché tutti i giovani, ovviamente, non sanno quello che saranno, quello che diventano, che lavoro faranno, se si sposeranno, no, insomma, si faranno fuori. Forse lei è la sua. Non ha vocazione. Ha la clausura. Ha la vocazione della clausura. Fine, ho visto che le personalità che avevo diventavano sempre di meno. Cioè diventavo in qualche modo un qualcosa che magari non mi piaceva, però ero quello. E adesso sono quello. Ecco, questa è una considerazione bellissima, che va da sola a giustificare un film che è insomma discreto, niente di che. Però è bellissima la considerazione. Cioè uno che cosa diventa? Nei casi migliori diventa il guscio. Oh, parlate bene, che chi non ha il guscio non diventa niente. Non diventa niente, è un po' di qua, un po' di là. Forse parliamo un po' di tempo, ma credo che siano pensieri, d'altra parte siamo in un clima di formazione culturale, insomma. Tutto questo mondaccio schifoso del ballettopoli, di queste mignotte, di queste cose, di queste cose, queste lemo, del cazzo infinito. Tutta questa gente è gente che non ha niente. Perché è tutto interessante? Gente che non ha niente. Cosa? Tutta la gente che prende le rette di ciò che si sbattono, scusate che faccio un po' speriale, si sbattono le ragazzette, eccetera, eccetera, con la cocaina. Tutto questo vuol dire che non c'è niente. Se tu prendi, metti un po' di cocaina, certamente mi fa piacere, è ovvio. Cioè, sono delle cose che suscitano un piacere, no? A me piace bere l'alcol, vediamoci, moderatissimo. Avevo due bicchieri, quando c'è uno, un vino, che è buono, prepara il vino, poi molto domestico, quando la televisione, qualche programma giornalistico. Mia moglie e l'altro è acqua minerale, a volte prendo un bicchiere, lo porto alle labbra e sento la differenza. Cioè l'acqua va bene, ma insomma non ha nessun gusto, il vino è buono. Ma se io diventassi abitante del guscio vino, non avrei nessun senso, no? Allora, bisogna avere il guscio. Lei se lo ricorda ormai questa frase qua, di avere il guscio. Adesso le spiego, il guscio, lei ce l'ha qui. E sa che cosa contiene il guscio? Contiene delle cose profondissime. Suo papà e sua mamma. Quelli non ci sono. Il guscio ci sta. I suoi desideri profondissimi. Ho fatto un sogno in cui sognavo di andare attraverso la macchina a prendere il mio vero mezzo di locomozione, che però non trovavo, no? E qual era il mio vero mezzo di locomozione? Era la motocicletta, perché le motociclette mi piacciono immensamente. Ci andavo una volta in un vespone gigantesco, un vespone, però poi però mi è sempre piaciuta l'idea della motocicletta. Allora nel sogno la motocicletta, e senza dubbio la velocità, la motocicletta, queste cose, non la macchina era schifo, fanno parte del mio immaginario, i genitori, il ragazzo o la ragazza che hai avuto, che fine ha fatto? Non lo so chiedere, no? Questo è il tuo uscio. Allora come la mettiamo col fatto che lo scrittore deve essere senza guscio? Svolgiamo il discorso. Non solo deve essere un mongolo, lo scrittore, dice qua, non solo deve essere un mongolo, ma deve essere svelto e brutto. E sì, perché se svelto e brutto, svelto l'essere, non attira attenzione, quindi è più libero di pensare. Che attira troppo l'attenzione, non è libero di pensare. Capite cosa voglio dire? Chi è al centro del mondo soffre poi di clero's narcisistiche. Ma qui invece è svelto, meraviglioso questo, non trovate, è svelto, svelto, uno che alza le chiappe facilmente. Su questo il concetto di alzare le chiappe, è un bello oggetto questo, non ci sono delle persone invece che hanno le chiappe di piombo, chi sono? Quelli che sono assestate in una posizione di potere, in una posizione di grande gratificazione, una bella donna, ricca, famosa, uno come Simona Ventura, io la detesto, vorrei la morte di Simona Ventura, ma uno come Simona Ventura, no, che ha questo fisico palestrato, per cui io non so perché sia appena uscito da 8 ore di palestra, si avverte che deve avere nelle natiche il mercurio. Avete capito l'immagine? Cioè solo sviluppo il concetto di culo di piombo. Perché? Perché? È troppo chiuso nell'opinione che hanno gli altri, i giornalisti che lei seguono, i paparazzi, la gente che vuole sapere di lei. Oltretutto nella fatuità assoluta del personaggio. Quanta gente è bloccata dov'è? Ma se uno viaggia dalla metropolità, lo scrittore per Valerio deve viaggiare dalla metropolità. Questo è il vero scrittore. Lo scrittore è l'uomo di Giulio Agricola. Deve viaggiare nella metropolità, capito? Non deve farsi riconoscere. Per esempio, lei è definita da perfetto scrittore, perché è difficile, è definita benissimo, secondo la mia modesta opinione. Ma ti faccio vedere. Beh, cosa hai G? Oh, dico, ma abbiamo scherzato, cosa c'è di più? Che la più l'idea di Dio dei G? No, di Dio. Di Dio dei G. C'è una ragazza, che io l'ho, una ragazza molto intelligente, carina, che è venuta e gli ho chiuso la porta, perché io l'ho lavorata in 2 mesi, e io ho detto, senta un po', ma mica è possibile, ma fa scherzare. Ma carinissima, ingenua, eh? Allora è tornata, glielo dico, ve lo dico pubblicamente perché gliel'ho detto a lei, oh, è tornata. E io già non la riconoscevo di qui. Poi ho capito perché non la riconoscevo, perché si era cambiata i capelli, da nera era diventata bionda. Questo mi vuole fare parole, già io mi portavo a riconoscere i veri, i più cari. Poi aveva 2 labbra rosse, un trucco alle 10 del mattino pesante, gonna corta, tacchiata, una gnotta. Una gnotta. E mi dice, ma che è questa roba qua? Non è pazzo. No, veniva un messaggio della gnotta. Non è possibile. E lei con grandissima civiltà, dico con straniera, però una ragazza molto intelligente e quindi le ha fatto ottimi esami. E sapete cosa mi ha detto? Per come mi aveva rifiutato la tesi, sono venuta così, così, così, la dava. Ce l'ha cercato di comprarmi. Ma, no, io le ho detto, ma, che partenza, ma. Prima di tutto non sono ancora con il talento, come mai accaduto nella vita, forse mi accadrà, ma non sono scelta di comprare. Ma aiuta, aiuto, io mi sono caduta a parole, ma che è questa cosa, sono schifo. Io ho capito che gli anni mi tolgono, ma mai capendo con quel modo schifoso. Una durata da parrucchiere di bella morte, sapete che viene il pioso di sopra, ti lasciano questo. Ma questi dozzoni di zeppettini sotto, mamma come credi, mi comprava perché era detto la tesi, no, ma io non vorrei questo genere, no, ma io non mi era pensato di dare qualche cosa alla lingua rossa. Chi è lo scrittore? È l'uomo di dica lei per una ragazza. È l'uomo no di Giulio Agricola. È l'uomo di Giulio Agricola. È l'uomo di Giulio Agricola. È uno svelto, brutto, cioè che non si fa notare, chi ha libertà, chi non ha legami con nulla, senza attacchi, che non ha rimpianti e che non ha rimorsi. Qui stiamo profilando tutto un quadro dello scrittore molto diverso da quello che io avevo prospettato. Non vedete, ma la cosa interessante è proprio discutere le idee di Valéry, eh? Cioè Valéry la pensa in questo modo, io penso che voi la riconosci. Chi ha ragione? Vedremo un po'. Non deve avere rimpianti, non deve avere rimorsi, deve essere libero, tutto proteso verso la sua presa profonda. Ma la cosa più bella è questa, dove deve abitare? Dove deve abitare? In un albergo. Questo è il problema. Abitare in un albergo, avendo che cosa? In questo albergo, avendo la legge. Senza libri, senza bisogno di scrivere, rispettando l'uno e l'altro, avendo stando in un albergo. Cosa vuol dire stare in un albergo? Io, quando insegnavo in altre università, ero costretto ad abitare in alberghi. In alberghi ci ho viaggiato, mi chiamo sempre d'estate, ci ho vado mille volte nella vita, mille, che dico, 100.000 volte, ero un uomo d'alberghi. Che cosa ti dà l'albergo rispetto al guscio della casa? E come? Non c'è stabilità, non c'è stabilità, non c'è stabilità. Penso che hai certamente 8 saponette se vai in albergo, io quando viaggio vado in albergo. Secondo te vai in un albergo a una stella o no? Quanto è il massimo? 5 stelle? Vado in albergo a 7. Perché? Ma perché io ritengo che bisogna fare, se lo metto sempre c'è un po' a 7. Ma quando uno lo fa, deve 7 diversi flaconi, no, che poi non servono a niente, in fila, scarpa, in un buco di grigia scarpa. Tutte queste cose strane così, no? Ma che serve? È lusso volgariano, lusso inutile, però è una piccola stilla di piacere che noi ci possiamo dare nella vita. Resta il fatto che l'albergo ti lascia muovere, e questo è quello che ci tu devi avere il coraggio di muoverti, cioè di cominciare a scrivere una pagina e poi di lasciarla e poi di cambiare il programma, il progetto, ecco, essere l'uomo di Giulio Agricola, brutto, piccolo, che cambia programma, che scende a termine. E allora quando io vi ho detto, però io scrivo solo con il mio buscione addosso, scrivo con la parete dei libri dietro, eccetera, è un altro modo di vedere le cose. Ma tenete conto che accanto al modo che vi propongo, che ritengo fondamentale, c'è quest'altro che apparentemente è in contraddizione, ma in pratica no. Perché? Perché io è ben vero che sono nel mio studio scrivendo con tutti questi arti tranquilli, no? Una volta per un bicchierino di whisky, da molti anni non lo più, una volta. Ma è anche vero che sono libero, o perlomeno, certo, di testa. Nel senso che sono idealmente solo con la valigia, senza libri, senza impianti, senza niente. Sono solo con me stesso. Se qualcuno entra che io sto scrivendo, non lo vedo. Allora, lui propone questo ideale di scrittore nomade. Lo scrittore nomade può realizzare due cose. La prima è questa. Io ho voglia soltanto di potere, cioè non dice, attenzione, non dice io voglio scrivere, voglio costruire, ma voglio poter scrivere. Questa è una bella frase, interessante, ma contestabile. Certo che effettivamente io vorrei scrivere quelle tracce, io vorrei scrivere, ma lui dice non è necessario scrivere quelle tracce, basta poter scrivere quelle tracce. Anche io gli rispondo alla regia, se io però riuscissi a scrivere guerre pace, metterei famoso nella fermità. E lui dice, ma questo è diminuire se stessi. Bisogna poter avere l'intelligenza per scrivere Guerra e Pace. Avere quel senso del ritmo, della musica, per poter scrivere la nona di Beethoven. Poterlo fare, ma non farlo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che lui dice è che quello che ama è la precisione. La precisione. Perché Valeri ama la precisione? Noi forse potremmo dire che la precisione in qualche modo è un'immagine dell'intelligenza, no? Però si potrebbe anche, quindi Valeri ha ragione, no? Però ha torto perché immagina che tutto sia nella precisione. E se invece lo sfuggire oltre la linea precisa fosse creativo, ecco, questa è una cosa che ci chiediamo. Valeri ha scritto alcune poesie belle, ma insomma mica troppo. Cioè, sì, forse, mica troppo. È un grandissimo scrittore e pensatore, ma se dovessi dire che è un grandissimo poeta, ha fatto poesia, ha fatto una poesia meravigliosa, ma una Robin non fa Primavera, che è il cimitero Marè, non basta. E perché non è stato così grande come Mallarmé, diciamo come Baudelaire, eccetera? Perché? Proprio per quello che sta dicendo adesso. Perché era troppo preciso, troppo attento a non sbavare la linea doveva essere perfetta. Chiaro discorso? Chiaro discorso? Il grande scrittore è chi sbava, è chi rischia. Prendiamo uno scrittore a cui per esempio questa ragazza che qui vedete ha dedicato la sua disegnata, che era Claudel. Claudel è un grande scrittore che ha scritto della romanza come argomenti, della romanza orrenda, perché erano argomenti cattolici, ideologici, con dei toni di propaganda, però nonostante questo aveva un gusto paradossale e folle dello stile. Quindi uno che sbavava. Quando dico sbavare, intendo una cosa che nessuno di voi ha potuto conoscere, perché quando io andavo a scuola, nelle scuole elementari, non c'erano le penne nere, pensate un po'. C'erano le penne con l'inchiostro era il banco, quindi si intingeva la penna. Allora una delle cose che la maestra che insegnava era di non mettere troppo inchiostro, altrimenti sbavavi. La lettera diventava più spesso, addirittura faceva delle macchie, ecco. Che bello dire che questo è bene. Questa vale un euro, ricordiamo, è diverso di ciò per l'euro. Il grande scrittore è chi fa. Secondo me. Lui dice che chi è preciso non parla. Secondo me il grande scrittore è chi fa. Allora facciamo un esempio per concludere. E Manzoni era un scrittore, era un sommo scrittore. Sì, però sapete qual era il difetto di Manzoni? È che sbavava poco, era troppo preciso. Era uno che ha voluto nella sua ironia, ricordate che il romanzo di Manzoni finisce in questo modo, dice questa è la storia che abbiamo raccontato, sappiate che se non vi fosse piaciuta, o vi avete divertito, non l'abbiamo fatto apposta. Dite che tutto questo è da biancheria pulita. Questa è una bella immagine, la biancheria pulita. La biancheria pulita è una bella cosa, io mi auguro per voi che voi abbiate in questo momento biancheria pulita al corpo. Ma il grande scrittore è uno che sa tenersi la biancheria anche non pulita. Il grande scrittore sa essere impuro, e questo lo sa così bene Valeri, che il grande scrittore deve essere non preciso e deve essere impuro, che laddove è stato più grande è proprio dove lasciato spazio alla sua impurità. Abbiamo fatto solo un pensiero, purtroppo, però abbiamo avuto modo di conversare su questo pensiero.